Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Oggi parliamo di materiali all'avanguardia, nati dalla tanto bistrattata ricerca di impresa, utile sia alle aziende nascenti, sia a quelle piccole e medie che da tempo cavalcano i mercati. Innovazioni che fanno fatturato anche adesso, con la crisi che morde, sfatando chi vuole ricerca e innovazione come parole vuote. Ecco gli esempi concreti che si toccano con mano. Ha fatto squadra contro la crisi l'azienda italiana Jobs, specializzata in centri di fresatura ad altissima tecnologia. I principali costruttori mondiali di automobili aerei usano le macchine Jobs per sagomare auto e aerei, ad esempio per i caccia Typhoon, il Boeing Dreamliner. Tra i clienti anche nomi come Augusta Westland, Airbus, Air Machi, BMW, Fiat, Volkswagen, Tata, Honda, eccetera. Le macchine di Jobs sono usate anche per il tessile, la stampa, il packaging e per la produzione di turbine. La via d'uscita dalla crisi trovata da Jobs, circa 50 milioni di fatturato, è stata l'aggregazione con le altre due PMI italiane d'eccellenza, sempre nello stesso comparto di macchine utensili, la Rambaudi di Torino e la Sigma di Vigevano, per competere a livello globale e raggiungere mercati inaccessibili altrimenti per le aziende di piccola taglia e quindi sopravvivere. Per i mercati asiatici hanno stretto poi una partnership strategica con l'imprenditore taiwanese Jimmy Chu e il suo Fair Friend Group. Il presidente di Jobs, Luigi Maniglio, ci racconta la storia. Io sono dagli anni 90 che ho fatto una prima esperienza nel settore delle macchine di packaging, dove ho creato un gruppo per acquisizioni aggregando con una quindicina di aziende, non solo in Italia, anche in Germania e in altri paesi, però con la sede in Italia, nello stesso settore, proprio per costruire un player di livello internazionale che potesse reggere alle sfide con aziende di più grandi dimensioni che nascevano e crescevano negli altri paesi. Nelle macchine utensili mi sono trovato dall'anno 2007 a fare la stessa cosa e quindi nel 2009-2010 a operare delle operazioni di acquisizione, che però in quel caso specifico non erano acquisizioni di aziende che stavano andando normalmente o bene, ma di aziende che erano in crisi. Quindi diciamo, abbiamo aggregato intorno a un'azienda che andava bene, che era la Jobs, delle aziende che erano entrate in crisi, che si chiamavano Sigma, Rambaudi, Sacman, e le abbiamo risollevate diciamo, grazie proprio al fatto di aver creato una massa critica, aver messo a fattor comune con l'azienda che andava bene alcune funzioni importanti come quelle commerciali, quelle finanziarie, quelle degli acquisti. Ecco, facciamo capire anche agli ascoltatori che cosa vuol dire per voi l'unione fa la forza, cioè addirittura arrivate a sagomare auto e aerei. Quali clienti avete? Per chi lavorate? Sicuramente lei ha citato l'aeronautica, è uno dei settori dove noi siamo più forti. Fra i nostri clienti ci sono società come Boeing, come Airbus, ma anche come i produttori di aerei da militari. E diciamo, le nostre macchine lavorano le ali, le fusoliere degli aerei. E quando parlavo di innovazione, chiaramente negli anni si è passati da degli aerei fatti di alluminio, la parte diciamo la copertura, ad aerei fatti di fibra di carbonio. Gli ultimi aerei fatti, a cominciare dal Boeing 787, ma anche molti aerei militari, sono fatti tutti di fibra di carbonio. Ecco, la vostra via di uscita dalla crisi è stata l'aggregazione con, appunto, come ha detto, due altre PMI italiane d'eccellenza, ma poi avete stretto una partnership strategica con l'imprenditore taiwanese Jimmy Chu e suo Friend Group. Ecco, queste frontiere, cioè come vi è venuto in mente di creare sia la prima frontiera italiana sia la seconda straniera? 55% del mercato mondiale delle macchine utensili è in Cina. Se uno ci mette insieme gli altri paesi, diciamo, asiatici, arriviamo ben oltre il 60%. A questo punto, in quei paesi, competere bene nel nostro settore è molto complicato per motivi di lontananza, di cultura, di tante cose, di lingua, ma soprattutto perché siamo aziende medio piccole, anche se ci mettiamo insieme comunque siamo aziende medio piccole e quindi avere un partner che ti apre le porte di quei paesi perché ha una forza particolare di assistenza tecnica, di produzione locale, è un elemento vincente. Io ho trovato questo Jimmy Chu che aveva affinità con quelle che erano le mie strategie per il mio gruppo in Italia e abbiamo pensato di mettere insieme le forze proprio perché lui aveva bisogno anche di un partner europeo per crescere in Europa dove era molto debole. e noi avevamo bisogno di un partner asiatico per essere in Asia, dove anche noi, diciamo, facciamo fatica onestamente. Oggi abbiamo posto le basi per diventare un player globale, perché abbiamo presenze anche negli Stati Uniti, in Sud America, insieme a lui. Noi ci siamo incontrati con questo signore a settembre dell'anno scorso a una fiera in Germania, e sono bastate 2 ore di chiacchierata per capire che avevamo qualche cosa da mettere insieme. Poi sono andato a trovarlo, ma subito invitato là, sono andato a trovarlo in Cina, dove ha degli stabilimenti incredibili, e da lì è nato poi l'accordo, che è stato chiuso a gennaio di quest'anno. Certo, e ovviamente nasce da, è sempre la confidenza e la fiducia reciproca, l'anima dei mercati anche in tempo di crisi. Sì, diciamo che i comportamenti negli affari spesso si trascura questo elemento, no? Ma i comportamenti alla fine sono fondamentali, nel senso che con lui, con questo signore, abbiamo visto che c'erano affinità anche dal punto di vista delle modalità di gestione delle aziende e dei rapporti. Ci sono alcuni elementi, alcuni principi di fondo, tipo la correttezza, che noi abbiamo notato in questo gruppo asiatico. Non a caso loro si chiamano Fair Friend Group, sembra uno scherzo, ma non è uno scherzo, cioè effettivamente loro sono impostati con questi principi, e quindi avere trovato un'affinità su quello ha aiutato sicuramente nell'andare poi a discutere e a mettere in cantiere le, diciamo, le azioni industriali che poi abbiamo messo insieme, in piedi insieme. Ed ecco un'eccellenza nata da incubatori come Chilometro Rosso e da università. Petroceramics produce ricerca su materiali ceramici. Fatturerà 2 milioni di euro quest'anno e dà lavoro a 16 persone, età media 35 anni. Nasce nel 2003 come società spin-off promossa dall'Università degli Studi di Milano per rispondere alla necessità di collaborazione tra le imprese e gli enti pubblici di ricerca nel campo delle scienze dei materiali. Il presidente di Petroceramics, Stefano Poli, racconta l'esperienza. L'idea nasce dall'esperienza che abbiamo condotto nel corso dei fine anni 90 e nei primi anni del 2000, affrontando, diciamo, problematiche sottoposte da diverse aziende che non riuscivano a risolvere alcuni problemi di ricerca e sviluppo sui loro materiali. La cosa è piuttosto particolare, perché noi siamo un dipartimento di scienze della terra, quindi un dipartimento che si occupa prevalentemente di rocce, quindi di materiali naturali, che però hanno delle fortissime analogie con, diciamo, i materiali di sintesi, in primis le ceramiche. Le rocce mostrano, essendo dei materiali naturali, una complessità estrema, da cui noi possiamo apprendere dei metodi di sviluppo anche sui materiali artificiali. Quindi diciamo che le aziende avevano bisogno di conoscere più da vicino questi materiali. Voi avevate la conoscenza di come reagivano materiali, pietre, eccetera, e quindi che cosa vi è venuto in mente di fare? Da un lato, chiaramente, in università avevamo delle capacità analitiche, ma poi soprattutto noi ci siamo accorti che spesso le aziende hanno una capacità di affrontare delle problematiche strettamente inserite nel loro filone produttivo, ma poi nel momento in cui si devono affrontare invece delle questioni interdisciplinari, si riscontra appunto difficoltà a risolvere problemi che implicano un discorso di tipo interdisciplinare. Quindi difficoltà di comunicare, diciamo, questi vasi comunicanti tra l'area business, l'area scientifica, l'area certo, che voi avete risolto con questo spin-off, diciamo, promosso che dall'Università degli Studi di Milano, è così? Ma le faccio un esempio molto pratico. Prendiamo uno scarto industriale. Allora, questi scarti possono diventare o rifiuti o, ad esempio, materie prime seconde, se uno sa dove riutilizzare questi scarti in altri cicli produttivi. Noi, avendo un po' di conoscenza su, appunto, le varietà di cicli produttivi, eccetera, abbiamo avuto la possibilità di suggerire diversi modi di utilizzare questi materiali. Quindi diciamo dalla ricerca nascono anche poi i prodotti delle aziende. Com'è stata questa esperienza di spin-off, e che obiettivo ha magari di far camminare da sola poi questa impresa? Diciamo che innanzitutto questo spin-off è nato grazie anche a delle iniziative di varie amministrazioni che in vari momenti della storia del nostro spin-off hanno bandito dei concorsi o per la creazione di nuove imprese o per attivare determinati filoni di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali, a cui diciamo noi abbiamo partecipato e siamo riusciti ad approfittare di queste occasioni di finanza agevolata. Siete anche una fucina di idee, fondamentalmente diventate questo centro di ricerca permanente e continua che di volta in volta crea nuove idee, start-up, imprese e via via appunto procede anche attraverso la crisi a diciamo produrre idee che funzionano. Quindi è una formula importante che voi ha aiutato, quella di collaborare tra università e impresa, enti pubblici di ricerca, è una formula valida, no? Sì, fino adesso per noi è stato produttivo. Abbiamo sempre avuto nell'impresa dei partner industriali. Oggi certamente il partner industriale più importante è Brembo, che ha il 20%, è presente col 20% nella nostra compagine sociale, e sicuramente questi ci permettono di avere anche una continuità nella progettualità di lungo periodo, ma a questi si accoppiano ovviamente l'Università di Milano, è presente nella compagine sociale, e diciamo questo vaso comunicante che c'è tra il mondo dell'impresa e il mondo universitario sicuramente aiuta per aprire l'orizzonte dell'azienda, facendo anche un investimento un po' più a lungo periodo sulla ricerca e sviluppo, e soprattutto cercando di sfruttare quei pochi volani disponibili a livello pubblico che appunto favoriscano l'innovazione. Per far capire un po' alle persone e visualizzare diciamo le produzioni o degli esempi di produzioni dalle rocce, che cosa avete fatto nascere in questi anni? Ah, sicuramente diciamo alcuni due o tre dei progetti più significativi sono alcuni sui freni in materiale ceramica, in carbonio ceramico, che hanno delle tessiture complesse che ritroviamo sia su freni appunto ad alte performance per auto, ma non solo, di alta gamma, fino però a diciamo sistemi frenanti non solo nel mondo automotive ma anche per l'aeronautica. E altri settori per noi molto interessanti in questo momento è la sensoristica, sensori d'ossigeno fondamentali per il processo produttivo dell'acciaio. Una startup consolidata ormai. Sì, abbastanza consolidata, con un costante trend di crescita, non esplosiva ovviamente visti gli ultimi anni, non esplosiva però sempre in attivo, cosa che ovviamente ci conforta e certo, ci rende ottimisti sull'attività futura. Queste le storie di oggi, ma se volete ascoltare le precedenti o scriverci, Voci di Piccola Impresa è su Twitter con l'account @vocipmiradio24.it, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, e il blog è su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza, un saluto da Anna Marino.